Maria Gimbutas nacque a Vilnius in Lituania nel 1921. Archeologa, responsabile di una visione totalmente nuova riguardo la preistoria europea, dopo un primo periodo di difficoltà dovuto all'impostazione rivoluzionaria delle sue teorie e al fatto di essere una donna, le furono accordati fondi per scavare e questo le permise di suffragare le sue teorie, che furono poi fonte di ispirazione per movimenti femministi già negli anni Ottanta, neopagani, neosciamanici, ecologici, pacifisti e per l'odierno movimento di risveglio della coscienza femminile. Attualmente è considerata un punto di riferimento non solo tra gli addetti ai lavori in campo archeologico e antropologico, ma anche nella nuova spiritualità naturale che si sta diffondendo in tutto il mondo. Cominciò a scavare in quella che chiamò l'antica Europa, una terra che andava dall'Italia meridionale a tutta l'area balcanica, seguendo il corso del Danubio fino alla sua foce nel Mar Nero. In quelle terre, in quell'arco di tempo, trovò almeno 500 statuette della dea che confermavano la sua teoria inerente una cultura matrifocale, ovvero incentrata sulla grande dea madre, protrattasi per migliaia di anni. Fu lei a riportare nel mondo l'informazione che quella che veniva superficialmente bollata come preistoria dai libri scolastici era stata in realtà una millenaria cultura pacifica, non ancora dominata dal patriarcato, ugualitaria e incentrata sulla sacra femminità. La prima divinità adorata dall'umanità fu una dea madre autofecondante che generava e rigenerava senza sosta le sue figlie e figli nel suo sacro grembo, rappresentato dalle caverne e dai canyon, analogicamente i canali della nascita nel corpo terrestre. La dea era la natura, era la vita, era la terra, ma anche il cosmo, il cielo stellato e il sole. Il suo potere era nelle pietre, nelle montagne, nel vento e nel fuoco e soprattutto nei canali e nei bacini dove scorre l'acqua che è il suo sangue. Questa meravigliosa ed evoluta società neolitica fu irrimediabilmente minata dalle invasioni di popoli guerrieri armati e a cavallo provenienti da est, dal Caucaso e dagli altipiani della Mongolia nel terzo millennio avanti Cristo. Maria Gimbutas li ha chiamati Kurgan. Con loro giunse la cultura della morte, della violenza, della razzia e dello stupro, della servitù e della schiavitù. In tre successive ondate furono assoggettate le pacifiche comunità native dell'antica Europa, che non conoscevano la violenza o la lotta e non furono in grado di difendersi, poiché non avevano armi né fortificazioni. Maria Gimbutas si insegnò all'UCLA, l'Università di Santa Barbara, in California. Durante la sua lunga operosa vita ha ispirato movimenti sociologici, ecologici, spirituali, femministi, artistici. Produsse moltissimi libri importantissimi per la nostra cultura e morì nel 1994 a Los Angeles, circondata dall'affetto delle sue discepole. La Scuola delle Donne è lieta di proporre estratti dal suo libro Le Dee Viventi, edito da Medusa, con traduzione di Martino Doni. Da Devana, buon ascolto.